A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La Zanzara. Seduto con le mani in mano legge un messaggino della Sant'Anchè. Aspetta di sapere quanti mesi gli daranno e poi beve un caffè. Un anno senza la condizionale. Ora la vera domanda, caro Parenzo, dove sei stato tutto oggi che non ti ho sentito, scusami? Beh, mi sono occupato di quella che... Senti questa voce? Chi è? La senti questa voce? Sei sul torpedone, eh? Il torpedone, mi hanno chiesto sì. Anche di parlare a bassa voce, hanno chiesto. Ma come sai, a me non me ne può fregare di meno che tu devi parlare a bassa voce. Sono nove persone. Non fare le battute sul fallimento del torpedone, perché l'azienda che è proprietaria del torpedone sia in Roma è evidentemente in stato comatoso. No, non dire mai così, ti prego, no. Mi chiudono il torpedone di tutto finito. David Parenzo sul torpedone Siena-Roma, purtroppo. Grande racconto popolare in stile pasoliniano, grande racconto popolare. Ma quale racconto popolare? Ma di che stiamo parlando? Comunque oggi ho visto tutto, so tutto, la giornata pazzesca. Aspetta. Mi sono fuori della parole, comunque. Se la vera domanda, non me ne frega niente, la vera domanda è questa. Sì, te l'ho chiesto, ma tanto lo sapevo. La vera domanda è questa. Si può scherzare sulla vicenda Sant'Anchè Sallusti, cioè sulla vicenda Sallusti, sì o no? Il giornale. Allora, Sallusti non scherza per niente. Questa mattina sentite cosa ha detto. Sì, cazzatissimo con i giornalisti, sentite. Lo so. Dopo, come dire, lo scempio fatto dalla casta dei magistrati e lo scempio fatto dalla casta dei politici, da stamattina un'altra casta si arruola nelle più vigliacche e modeste, che è la casta dei giornalisti. Leggendo i giornali di stamattina è chiaro che i giornalisti, salvata la loro pelle, perché giustamente è stato bocciato quel disegno di legge infame, adesso escono allo scoperto, e i giornali stamattina trasudano di odio nei miei confronti, di compiacimento per quello che è successo a me e di ironia sul fatto che invece... Stampa vergognosa, credo che si riferisca proprio alla stampa in questo caso, sentite. Quali? Ma il Corriere della Sera, il Fatto, la Repubblica, la stampa ha fatto una cosa vergognosa. Cioè? Io credo che il direttore della stampa dovrebbe... Ma ha fatto una mezza pagina raccontando il lusso della presunta casa in cui dovrei andare a trascorrere i 14 mesi. Si è messi male dal signor del debbio che parlava, siamo messi male. Effettivamente, Paolino. Cosa fa la stampa oggi in un articolo firmato, se non sbaglio, dal signor Poletti? Descrive. Fabio Poletti. Ma non me ne frega niente che tuo amico non è qui, non è questo il punto, non ce ne frega niente. È un bravo cronista. Vabbè, ma non ce ne frega niente, né che non mi interessa. Ma a me non interessa né che sia tuo amico né che sia un bravo giornalista. Io non me ne importa assolutamente nulla. Signor Poletti descrive l'interno di casa Sant'Anchè. Dechirico sul caminetto, poltrone in coccodrillo, pareti istoriate con poesie di Verlaine, la piscina rivestita in madreperla, quattro piani, il letto king size rivestito da coperta di lince, il dechirico sul caminetto l'abbiamo già detto, le poltrone di coccodrillo australiano, il tablet coffee, cioè il tavolino del caffè, rivestito di pelle di zebra. Vabbè, la casa di un operaio dell'Ilva di Taranto, no? E beh, che c'entra l'Ilva di Taranto, scusa? No, dico, non è la casa di un operaio che lavora all'Ilva di Taranto. No, certo, esistono le case degli operai dell'Ilva di Taranto ed esiste casa Sant'Anchè. E quindi dire che è finito, che se è lì, se è ai domiciliari lì, sì. È una cosiddetta prigione di lusso, non si dice una falsità. Cioè tu... No, ma non lo so, ma adesso voglio dire... Parenzo, voglio due dire. Punti, Sallusti è in una prigione di lusso, questo stai dicendo. Oh, ma no, però, se è, no, secondo no, te no. È in una prigione di lusso, dico, sì o no? Dico... Se se è lì, io non lo so perché non ho sentito. Ma non girare intorno alle cose, è lì. È lì, ma è fuori di dubbio. Che cos'è? È in una prigione di lusso. Benissimo, abbiamo accertato questo. Secondo te è in una prigione di lusso? Ma che cos'è? Ma no, ma basta. È in una prigione. È una prigione, punto. È una prigione. Sono arresti domiciliari, punto. Non mi interessa dov'è. Potrebbe essere pure al castello di. Ma infatti non cambia la sostanza della. Tu dici che è una prigione di lusso. Tu dici che è una prigione di lusso. Non cambia la sostanza. Te lo ripeto. Aspetta. Un attimo solo, Piero Chiambretti. Un attimo, non mi interessa. C'è tempo. Piero Chiambretti su Twitter. Qui ai domiciliari della Sant'Anché il rancio è buono e abbondante, il secondino un po' meno. Paolo Madron, direttore di Lettera 43, Sallusti ai domiciliari nella casa della Sant'Anché, ma il disegno di legge non aveva abolito la galera? Eccetera, eccetera. E questa è la ballata. Mussolini. La Meloni, cooptata dal pennellone di Fini, muta deve stare. E torniamo alle primarie farsa del PDL. Ma se io che dice la candidata Meloni, cosa dice? Berlusconi, si sottoponga alle primarie. La candidata Meloni. Lei si è sottoposta alle primarie per diventare ministro? Lei si è sottoposta alle primarie quando è entrata nell'ufficio di presidenza? Non c'erano prima le primarie. Lei si è sottoposta alle primarie quando è diventato il capo della segreteria dei giovani, che è nominata, cooptata dal pennellone da Fini? No. Allora lei è classe dirigente, gravemente classe dirigente, quindi muta. Mussolini sempre numero uno, Bersani Renzi naturalmente, e andiamo Bersani sulla questione delle iscrizioni al secondo turno, sai che c'è ancora questo dibattito, no? Parenzo, lo sai, sì o no? Bersani, non sono un porto di mare. Cerchiamo di fare le cose serie, le primarie sono aperte, ma non sono un porto di mare, dove ognuno viene quando vuole. Stiamo facendo una cosa seria. Renzi, Fede, voto a Bersani, mi sono tolto un peso. Qualcuno gli deve aver comunicato l'Emilio Fede di ieri sera qui alla Zanzara, quando ha detto di voler andare alle ballottaggio e votare Bersani. Oh, a proposito, Emilio Fede ha detto che voterebbe Bersani. Finalmente uno di loro che dice, sono proprio contento, guardi. Emilio Fede e Casa Pound, mi sono tolto un peso, sono sereno. Poi Renzi ha detto anche che ha dei sondaggi e un suo partito sarebbe tra il 12 e il 25%, poi ha detto comunque non me ne andrei mai. Altri scontri oggi poi, ma insomma frattaglie tra Renzi e Bersani, non mi sembra granché importante. Qualcuno attribuisce a Renzi questa frase, l'invenzione di Equitalia è di Bersani, bah! Beh, poi il cerchio tragico, c'è da fare sentire il cerchio tragico di Galan. Bella questa cosa. Giancarlo Galan che dice: intorno ad Alfano c'è un cerchio tragico, ricordate, no? Il cerchio magico. Sembra evidente che comandi un gruppo, un establishment, sì, l'ho chiamato, ma dopo si offendono perché non hanno il minimo senso di ironia. Dai, tanto sono già incazzati, lo dico di nuovo, un cerchio tragico fatto da insomma, che ci ha portato a perdere tutte le elezioni che abbiamo fatto. Ed è con noi chi, caro Parenzo, chi ti ho portato oggi alla radio, chi ti ho la portato? La tua mente diabolica cosa ha partorito? Ma è diabolica, adesso non esageriamo, non so, diabolica. Mi la è venuti... mente cinica. No, cinica. La mia mente cinica no, beh, un cinico per eccellenza però, uno che nel tempo è diventato cinico, tanto addirittura da definirsi un mercenario, cioè io ormai non ho perso qualsiasi tipo di ideologia, non me ne frega più niente, è roba che mi ha fatto impazzire questa cosa qui, sono un mercenario, lavoro per chi mi paga. Fabrizio Rondolino, buonasera. Buonasera. Come va? Come va? Che meraviglia. È una meraviglia qua. Consigliere delle primarie, se ci saranno, oppure anche dopo, della Sant'Anché. Ma scusi, secondo lei ci saranno o no queste primarie? Mi sembra insomma che barcollino un po', Mi sembra anche a me. Dunque, finisce la sua consulenza se finiscono le primarie? È l'incarico più breve della storia. Oppure continua con la Sant'Anché anche dopo a primarie cassate? Ma non lo so, in realtà era già cominciato prima, posso rivelare alla Zanzara questa... Come prima? Da quando? Quando? Penso alla prima dell'estate, avevamo cominciato un po' a lavorare insieme. Cioè da prima di tutto questo ambaradam delle primarie, anche no, lei in realtà, giugno, no, in realtà è proprio questo il fatto, che a giugno già erano state convocate una volta, e che il PDL è un, non so come definirlo, come si può definire? Una sabbia mobile, una sabbia mobile permanente. Ma che, scusami, già, dimmi Davide, che c'è Parenzo, che c'è? Ma no, voglio capire dico Fabrizio, ma cosa hanno in comune D'Alema e la Santa Chiesa? Come al solito non si sente niente perché è sul torpedone, lascialo perdere, uno dei suoi. No, ho detto che differenza, okay. Che cosa hanno in comune? Cosa hanno in comune D'Alema e la Santanchè? Niente, nulla. No, una niente, cosa ce l'avranno in comune. No, non hanno niente in comune, ma io sono un ragazzo curioso, non è che faccio due volte la stessa cosa, sennò che divertimento c'è. No, ma quello non c'è dubbio. Però quello certo. È quello l'abbiamo capito, ma la parola mercenario va bene, no? Ma guarda, anche questa sì, l'ho detta Telese, l'ho detta per ridere, però poi pensandoci dopo che l'ho letta scritta, è proprio così. I mercenari, i mercenari sono quella roba che nel Cinquecento, mentre le corti rinascimentali producevano ricchezza, lusso, arte, poesia, e loro facevano le guerre per conto dei principi e lasciavano gli italiani in pace. Dunque il mercenario è una figura storicamente nobile. Cioè non è proprio così da bistrattare, cioè non è una figura ripugnante. Fa il lavoro sporco, è un po' come il becchino, no? Quello spazzino, queste cose, questi lavori. Scusa, mi posso fare i fatti tuoi? Quanti soldi ti dà la Santa Chè per le primarie? Non si e ancora non ci siamo, non penserai mica che dico alla radio una cosa del genere. E beh, io ci provo, che vuol dire? Che ne so, me dà 200 mila. Dare il dechirico, non scusami, ha un dechirico. Già, ecco, diciamo che il dechirico potrebbe essere adeguato compenso. Beh, diciamo che ogni tanto mi ricordo di fare il giornalista, così allora cerco di farmi dire delle cose. Oppure per sbaglio. La sauna, no? Cosa ha detto il signor Cruciani? Ma tu sei stato in quella casa, Fabrizio? No, io non ci sono mai stato e penso, come dicevate all'inizio, che poi si può anche ridere di tutto, ma a me la cosa, se cioè sono i 30 secondi di serietà, la cosa che mi ha indignato non è tanto la violazione della privacy, che è fastidiosissima, per carità, ma il fatto che cioè, un giornalista va in galera e oggi il giornale avrebbe dovuto uscire tutti gli stati a lutto. E invece appunto hanno giocato la Santanchè, che poi non è neanche casa della Santanchè, nel senso che da quanto so io loro da un paio d'anni convivono insieme, quindi sono una coppia di fatto. Vabbè, casa loro, sì. Vabbè, anche questo è un dettaglio. Vabbè, di proprietà della Santanchè, in questo senso, di proprietà della Santanchè. Il punto è questo, il direttore di un giornale per la prima volta nella storia va in galera, poi i domiciliari gliela date la procura perché... Bruti liberati, con una spaccatura. Non è che l'ha chiesto lui non ha chiesto niente, la procura, che è vistosamente in imbarazzo per il casino che hanno combinato con questa sentenza, ha cercato, come dire, di metterci una toppa. Però sempre galera è, cioè lui non è che può uscire a comprare sigarette o andare al cinema. Per cui scrivere che sono 920 metri quadrati con piscina coperta, letto e king size. È abbastanza vergognoso, sì, abbastanza vergognoso. Forse perché altri direttori sanno che questo destino non ce l'avranno, no? Perché cioè c'è un po' di invidia, non ho capito. No. Sanno che c'è un po' di invidia e che Sallusti è brutto sporco cattivo, mentre invece per esempio Calabresi è uno di quei direttori che piace alla gente che piace, quindi il primo va in galera e gli altri e l'altro invece si permette di ironizzare, e così è l'Italia, no? Però cioè, poi tu non dici che in quell'articolo c'è l'omesso controllo del direttore come Sallusti qualcosa? Perché la Santanchè è furibonda, e ha denunciato pare per 10 milioni di euro la stampa, da quello che si dice. No. Sì. Non so, questo non lo so, ho letto, devo dire, di questo non abbiamo parlato perché effettivamente... Pare voglia denunciare, per un sacco di soldi, vuole chiedere, poi le richieste di risarcimento, eccetera. Dice che non ha mai denunciato nessun giornalista, stavolta vuole denunciare per violazione della privacy, altre cose ancora, ma è molto arrabbiata per quel Lorenzino il Magnifico, perché a un certo punto nell'articolo c'è scritto suo figlio che qualche malelingua si ostina a chiamare Lorenzino il Magnifico. Il Magnifichino, anzi, Lorenzino il Magnifichino. Traffico, torniamo subito con Fabrizio Rondolino, consigliere delle defunte primarie per Daniela Santanchè. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Allora, su Twitter ci si scatena in questo modo, si può ridere o no? Enrico Bertolino, condanna pesante per Sallusti, ai domiciliari con la Santanchè, forse meglio il 41 bis. Aurelio Mancuso, che è il presidente dell'Arcigay, peraltro, Parenzo, amico tuo, signor Aurelio Mancuso. Era, sì, scusami. Solidarietà ad Alessandro Sallusti, che sconterà 14 mesi di domiciliari nella stamberga della Santanchè di 920 metri quadrati su 4 piani con piscina. E via andare, eh. Madrona, no, l'abbiamo già detto. Madrona l'abbiamo già detto, eh. Voglio dire, la galera è terribile, e ha ragione Fabrizio quando dice che c'è, come dire, una vergognosa accettazione del fatto che il giornalista in galera. Ma il primo tra tutti, Fabrizio, che vuole i giornalisti in galera è quel sadico, cinico, amicissimo mio, ma anche un po' coglione, di Giuseppe Cruciani, che è il primo che vuole. No, io non ho detto questo. Io ho detto che. Quindi tu vergognati, io dico che quella è una prigione dorata, e lo ripeto ancora, dico che Sallusti non deve stare in galera, ma dico che c'è chi va in galera a Grattasoglio, al Giambellino, chi va in galera nei quartieri popolari, e chi invece ha la fortuna, ma mica voglio dire è una colpa, di finire in uno splendido posto. Ma non dovrebbe essere nemmeno un problema questo qua, perché lo noti in maniera così... No, è una notazione di colore, se vuoi. Rondolino, oggi invece maramaldeggia anche Travaglio, eh. In casa 24 ore, viene in mente Fantozzi, va in pensione, dove ragioniere Ugo si ritrova da un giorno all'altro recluso fra quattro mura con l'aggravante della moglie Pina, la quale dopo qualche giorno, vedendolo così inutile e depresso, non fa ridere. Eccetera, eccetera. Travaglio non fa mai ridere, ma comunque sono anche un po' sempre la stessa battuta, no? Cioè, un giornalista va in prigione, il punto è che la sua prigione è una villa dorata, ho capito, però non... Cioè, se succedesse, cioè, se domani succedesse lo stesso a De Bortoli, a Ezio Mauro e a Calabresi, che non hanno certo case meno, non è che stanno nelle bicocche, no? Sì. Io vorrei sapere che cosa direbbero. Cioè, non si descriverebbero con questa minuzia di dettagli, sì, le case di questi direttori? Non credo proprio, e comunque forse qualcuno si accorgerebbe che c'è un problema di libertà in questo paese e non di arredamenti e di metri quadri. Ma i giornalisti, no? Odiano la coppia Santanchè Sallusti, secondo te? In generale? Ma guarda, odiano, non lo so, a me Sallusti sta molto simpatico perché è uno... Anche un guerriero, perché è un guerriero, no? È un guerriero solitario, è uno che raramente cerca solidarietà. Però scusami, Fabrizio, tu non lo tiene quasi mai. Una cosa in comune me la devi dire tra D'Alema e la Santanchè. Una cosa, se tu sei passato da D'Alema alla Santanchè. Ho già risposto. Una cosa. Non vale, la seconda domanda è come il processo, non puoi essere processato due volte per lo stesso reato. No, ma non hai detto nulla, hai detto niente. Ma una cosa, ci sarà una di caratteriale. Oddio, certo, sono, se vogliamo dire, sono due persone determinate, però è anche forse un po' banale, no? Perché tutti quelli tutti quelli che fanno politica hanno i coglioni tutti e due, si può dire che hanno le palle tutti e due. Va bene, l'hai detto tu. Sì. No, dillo tu, no, l'ho detto io. Dillo tu. Io lo sottoscrivo. No? Hanno le palle tutti e due, vabbè. Ti piace lavorare con quelli che hanno le palle? David, che sta insinuando sui baffi della Santanchè, che ti strappo il naso, eh? I baffi della Santanchè. Quando scendi dal torpedone. Ma Calabresi ci ha messo del suo in questo articolo contro la Santanchè, secondo te, il tuo amico Calabresi? Ma no, non credo, tu mi vuoi far litigare, lui mi ha già cacciato, quindi quello che doveva fare l'ha fatto. Ma no, non credo, non lo so, onestamente. Direttore della stampa. Certo, i direttori leggono gli articoli, quello è un po' il loro mestiere, no? Però Calabresi mi dicono che c'è pochissimo al giornale, quindi forse non se ne sarà accorto. Il Fatto lo definisci un giornale fascista? Ma chi? Il Fatto, tu. Io? È un giornale di destra, un giornale... Beh sì, di destra indubbiamente, perché io sono cresciuto in una sinistra in cui i giudici erano considerati un'articolazione del potere della borghesia, no? E sono rimasto... In questo fermo di idea della gioventù. Una volta Sposetti l'ha definito così, un giornale tecnicamente fascista. Ugo Sposetti. Beh sì, in questo senso qua che sto dicendo anch'io, sì, penso proprio di sì. Ma poi fascista che vuol dire? Perché poi i fascisti vedi, manganellatore. Forse manganellatore, perché i fascisti di oggi sono, non dico brava gente, perché altrimenti poi vengono di nuovo messi in croce, però sono comunque persone normali, mentre invece questi amici del Fatto hanno questa tendenza proprio a prenderti di mira, a corcarti di botte e poi andarsene dall'altra parte e prendere di mira un altro, no? Cioè la Russia è più liberale di quelli del Fatto? Ma no, c'è dubbio, la Russia dà un calcione in favore di telecamera, il massimo di liberalità, quelli invece preparano i dossier, un'altra cosa. preparano i dossier addirittura. Addirittura. I dossier giornalistici, per carità, però fanno le loro campagne, quando prendono uno, un fenomeno, una cosa, eccetera. Hanno anche un conto sono fonti. I dossier, un conto sono le campagne di stampa, però. Vabbè, ma dossier nel senso di... In questo senso? No, se no poi vengo querelato. Non volevo dire dossier dei servizi segreti. Volevo dire ma no, le polpette... Files. Vabbè, senti, ma allora tiriamo giù la Claire di questa primaria, su, ufficialmente. Rondolino, consigliere della Santa, che tira giù la Claire. Non si faranno tutto più. Tutto finito. Tiriamo giù questa Claire. I soldi non li piglierai perché non si faranno le primarie. Cosa volete che vi dica? Non lo so, siamo nelle mani di Alfano, in parte anche di Berlusconi, ma forse più di Alfano, perché alla fine... C'è Bauro, una vignetta di Bauro sul sito di servizio pubblico. Sallusti chiede gli arresti domiciliari della Santanchè. C'è la Santanchè vestita da poliziotto nazista, con Sallusti messo così a quattro zampe, nudo, con una cintura intorno un po' sadomaso. Adoro il sadomaso, e la Santanchè che frusta. Questo è Bauro. Questa è una citazione pasoliniana dal grande film Salò e le 120 giornate di Sodoma, secondo me. Mamma mia, che cultura! Dove l'hai tirata fuori sta roba? Ma è troppo colto. Ma credo che David sia andato oltre la fantasia di Mauro Senesi. Comunque, ciao Fabrizio. Prendiamola per buona. A presto. Ciao. Ciao a tutti. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Alfano invoca Berlusconi, chiede a Berlusconi: resta con noi, facciamo le primarie, rinnoviamo il PDL. Matteo Renzi, a Porta a Porta, dice: non firmo contratti da lei, porta sfiga. Così il ruggito del coniglio, storica trasmissione di Radio 2 Rai, prende per i fondelli il duo Santanchè Sallusti. Si consuma la tragedia di Sallusti. No. Il direttore del giornale. No. Che va ai domiciliari a casa della Santanchè. Oh. Ai domiciliari a casa della Santanchè. Mettetevi nei panni di quest'uomo. No. Ne avevamo già parlato in passato, amici. Ora, al di là di come uno la vede, francamente ci sono dei limiti, cioè l'essere umano va rispettato. Ai domiciliari a casa della Santanchè, francamente sì, è un problema anche di diritti umani, scusate, bravo, ma è meglio Alcatraz, dai. Meglio stare in cella con Pepper Braciola che ti guarda con occhi iniettati di sangue dalla branda di sopra, è vero o no? C'è un mondo che ha già tutto. Titoli del TG3. Titoli del TG3 adesso arrivano, eh? Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ilva, nuovi indagati, l'azienda annuncia impianti chiusi fino al riesame, gli operai occupano, corteo anche a Genova, incontro Monti Napolitano per il decreto. L'Ocse e l'Italia rischiano una nuova manovra, aumentano deficit, debito e disoccupazione, consumi ai minimi dal dopoguerra, Palazzo Chigi, evitato il peggio. Monti, senza investimenti il sistema sanitario a rischio, non è in discussione il finanziamento pubblico ma servono altre risorse, la CGIL dica se vuol privatizzare. Campagna già aperta per la sfida tra Bersani e Renzi, il sindaco chiede che chiunque possa votare, Bersani, le regole non si cambiano in corsa. Ancora in alto mare le primarie del PDL, Alfano, spero che Berlusconi resti con noi per rilanciare il partito ma se si candida è inutile farle. Riassunti a Pomigliano i 19 operai della FIOM, ma oltre 2000 restano ancora in cassa integrazione. Polemica la Fiat, privilegiati, azienda penalizzata. Al Cairo torna la protesta, decine di migliaia in piazza contro il decreto con cui il presidente Morsi si è dato poteri insindacabili. Violenti scontri. Lui l'ultima variante del vendolismo. Mi impegno del vendolese, del ma che stai a di Vendola, mi impegno perché non vinca Renzi. Poi in realtà domani Vendola dirà esplicitamente che ai suoi di votare per Bersani, però dice mi impegno perché non vinca Renzi, e dillo, no? Che voterai per Bersani. Cerco di impegnarmi in queste ore, in questi giorni, perché non vinca Renzi, perché lo considero per certi aspetti un innovatore, ma per gli aspetti sostanziosi del suo programma di politica economica e sociale lo considero un conservatore. Ma i giornalisti infami di Sallusti li abbiamo fatto ascoltare, contro tutti i giornalisti che descrivono la casa della Santanchè, che parlano però del rapporto suo, del rapporto suo con la Santanchè, piuttosto che della sua carcerazione? Sono degli infami, i colleghi sono degli infami, dovrebbero vergognarsi di quello che stanno scrivendo e dovrebbero giocare con le loro vite invece che con la mia. Hanno salvato la pelle grazie al mio appello al PDL di far cadere quella legge, che avrebbe punito probabilmente anche loro, e salvata la pelle adesso si scagliano con una violenza e una cretineria che non ha pari in nessun giornalismo del mondo. E intanto qual è l'inno, l'inno più bello o l'inno più ridicolo del mondo, caro Parenzo? Ieri eravamo tutti quanti per l'inno di Scilipoti versus l'inno del partito di Fede, no? Oggi vi propongo una nuova sfida. L'inno... Ma non metterlo perché io sono in viaggio. Siccome poi l'autista sta ascoltando, non vorrei sbandarsi il pullman se metti una delle tue solite cose. E si sente che sei in viaggio. Peraltro, l'inno di Alleanza di Centro di Pionati, senti. No. Sì, sì. No. Alleanza di Centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Alleanza di Centro per la storia, per questa nostra patria da salvare. Noi vogliamo difendere l'onore di chi non ha più soldi da pregare. L'Alleanza per l'Italia di Pionati, dell'amico Pionati, questo è il suo inno. Oggi sfida, sfida, grandissima sfida. Beh, te lo ricordi? Udeur verrà? No, mi ricordavo questa alleanza di Centro per, sembrava una marcetta, no? Questo me la ricordavo. Senti, senti l'inno di Clemente, eh? Presto vedrai, verrà. Beh, io tifo per questo, eh. Udeur verrà contro Alleanza di Centro per l'Italia, eh. C'è più ritmo, più rock, più rock. Diciamo, siamo nel campo della tragedia più totale, siamo nel campo dell'orripilante, dell'orrido, dell'horror. Del conato, dal proprio dal senso latino del termine conor conaris, conatus sum conaris, proprio del termine conato. Però va bene, 800240024, Banni da Padova, buonasera. Banni da Padova, stai zitto che si sente poco stasera, non si sente nulla, sono arrabbiato come una bestia. Banni da Padova. Banni, dica. Volevo solo manifestare il mio dissenso su Parenzo, che anch'io. Bravo Parenzo, perché andare a giudicare la casa dove va a vivere Sallustri quando tu pasteggi a Caviale e te ne vanti radio, mi dispiace, fai proprio specie. È come fare il culatone col culo degli altri, eh. Vanni, ha detto la sua? Sì, ciao Vanni. Bene, Giovanni dalla provincia di Cremona. Hai perso un'occasione per stare zitto, perché ma il fatto che tu non capisca non mi stupisce comunque. Giovanni dalla provincia di Cremona. Ma io lo ripeto. Buonasera. Cioè, che cosa abbiamo? Sono divertitissimo dagli inni, veramente. Sono due giorni che mi faccio di quelle risate pazzesche. Allora, ieri sera, mentre ascoltavo la radio, convinto di essere su Radio 24, ho detto no, ho sbagliato, è Radio Maria, e invece era l'inno di Emilio Fede. Ecco, a tal proposito volevo dire che l'inno di Emilio Fede, veramente, l'ho sentito e l'ho risentito, e il mio giudizio finale è che è veramente una cagata pazzesca. Ecco, questo è il mio giudizio su quello di Emilio Fede. Invece l'altro di Poti, veramente quello lì peccato. Quello lì a Sanremo avrebbe sicuramente vinto o sarebbe arrivato nei primi tre. Ma quale? Quale? Quello di ieri sera. Di, ah, di Scilipoti, no, Poti, di Poti ha detto lei. Ecco, sì. Ecco, e invece quelli di stasera veramente fanno capire di... in che situazione siamo. Ma perché, caspita, con tutte le belle canzoni che noi abbiamo italiani, non mettiamo un bel, che ne so, un inno con il nostro Pavarotti che faceva, che cantava delle musiche stupende, non so, tipo buongiorno a te, qualcosa di, no, un po' allegro. Com'è, scusi, questa? Buongiorno a te, la la la la. Qualcosa di un po' più... così, che dà un po' più di speranza, perché qua sembra il Titanic che affonda con la musichetta di sottofondo. Ma lei ha una voce, famoso... lei ha una voce tenorile, caro Giovanni, eh? Sì, sì, sì, sono un tenore, però canto purtroppo solo davanti allo specchio la mattina mentre ma mi faccia qualcosa, andare a lavorare. Mi faccia qualcosa. Vincerò, vincerò. Ecco, mi fermo perché sennò spacco la radio. Grazie Giovanni, sì, dalla provincia di Cremona. Roberto da Modena. Buonasera Roberto. Buonasera. Dica. Vi sento un po' corporativi per questa storia qui delle carceri. In che senso, scusi? Un po' corporativi nel senso che vede, cosa succede? Che al popolo italiano di cui, sì, faccio parte, eccetera, questa storia qui non è che lo scaldi molto, per un semplice motivo, perché vede, quando si tratta di creare scandali o di parlare di scandali, tutti quanti grandi titoloni, eccetera, poi però, quando invece salta fuori che era una bufala, sì, no? Articolino, piccolino, da una parte, via, ed è finita lì. Se Sallusti si incazza perché questi fanno un po' di ironia o lo prendono per il culo o descrivano la casa della Santanchè, utilizzano il sistema Sallusti. Sallusti ha sempre fatto così nei suoi giornali e adesso gli dà fastidio che qualcun altro faccia quello che ha fatto prima lui. Ma insomma, ma chi, ma guardi, che io non ho assolutamente difeso Sallusti. Secondo me la satira e le descrizioni dei giornali sul rapporto tra la Santanchè e Sallusti sono assolutamente legittimi tutti. Non direi mai a un giornalista infame per aver parlato del rapporto tra, tra la Santanchè e Sallusti. Guarda, il suo tono fosse di disapprovazione per quello che ha scritto la stampa. Non assolutamente, so che altro, no. Secondo me in questi casi la privacy esiste pochissimo. Poi, dopodiché, non l'importanza di dire che il figlio viene soprannominato Lorenzino il Magnifichino, cosa peraltro non veritiera, in quel contesto non la vedo, però non c'è nessun problema. Quella l'ho seguita poco, l'ho seguito di più il resto e le dico, l'impressione che si è avuto ascoltandola, infatti mi stupivo un po', era che lei fosse da quella parte, cioè fosse molto critico per questa cosa qui, eccetera, che invece secondo me questo è nello stile anche Sallusti e di conseguenza... Per me si può scrivere di tutto, si può scrivere di tutto. Ha fatto discutere oggi una dichiarazione di Renzi, ho dei sondaggi, il mio partitino, un mio eventuale partitino che non farò mai, però l'ha detto, sarebbe tra il 12 e il 25, citava un sondaggio della Gruber, se non sbaglio. Guardi, se io volevo andare via, andavo via prima. Ho i sondaggi che dicono che il nostro raggruppamento potrebbe avere come minimo, l'ha visto, sono usciti un paio di settimane fa, come minimo il 12%, con un margine di arrivare al 20-25%. Se volevo farmi la mia pattuglia di parlamentari e diventare uno dei tanti, uno come loro, bastava che mi facessi il partitino. Io però, beh, insomma, col 25% non è un partitino. Guardi, Belpietro, no, il minimo 12, massimo 25. Io non credo a quelli che si fanno i partitini. Mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane. E però l'ha detto. Sofia, Sofia, Sofia, portami via, non voglio... voglio più mangiare pane gulag. Ukulele! Ukulele! Tra la steppa ed il Mar Nero c'è il vivaio di Taras Bulba, c'è la statua del cavallo di Zabov. Sì, c'è l'impronta della scarpa di Khrushchev. Sì, c'è la voglia rossa e blu di Gorbaccio. Bersani, Bersani e pettinare le bambole in latino. Che lei potrebbe dire anche pettinare le bambole in latino. Pettere pupas, sì, ah, potrei quindi... dirlo, lo so, potrei dirlo, ma bisogna sempre stare al di sotto pettere delle... pupas. Bisogna, ci insegnava Manzoni. Star sempre al di sotto delle proprie solennità, volar basso. Poi se capita di far da punta su, la si fa, ma insomma, potrei farlo anche in latino. Che tengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica e suona con maestria. Mentre Renzi ha detto, Bersani ha dato poteri a Equitalia con le leggi fatte insieme a Visco. Beh. Beh, un attacco diretto, hai dato poteri ad Equitalia, nell'immaginario popolare una sorta di, no, di piovra. L'invenzione va attribuita al signor Tremonti, comunque. Adesso hai, hai sparato la tua minchiata delle 19.37, 800 24 00 24 800 24 00 24. È esattamente il contrario di quello che dici. Vittorio da Firenze, buonasera. Quelli sono i poteri, parla con la gente. Quelli sono i poteri, ma la prima volta fu istituita parla attraverso una legge di Bersani e di Visco. Vittorio da Firenze, io buonasera. Ma a me non me ne frega niente di questa polemica, non hai capito, però tu come al solito devi fare il difensore del Partito Democratico. Vittorio da Firenze, no, buonasera. Ma che mi frega a me? Vittorio, dica. Sì, sono qui. No, volevo dire una cosa su Sallusti. Sì. Che questo è banale, eh? Sì. Cioè, ognuno di noi ha una professione, no? Ma si la svolge sempre al limite. Alle volte si sbaglia. Sì. E se si sbaglia si paga le conseguenze. Sì. Ora, Sallusti negli articoli è sempre... non si sa mai se di qua, di là, offende, non offende. E stavolta ha dato di fuori. In che senso, scusi? Nel senso che ha permesso a qualcuno di... pubblicato un articolo che probabilmente andava a offendere altre persone. Sì, guardi Vittorio, allora se uno si riferisce a quell'articolo in particolare, la Galeria Sud, io per rispondere alle accuse che mi faceva Parenzo, io penso che in casi limite ed estremamente gravi, è evidente, di diffamazione reiterata eccetera eccetera, di danni gravissimi procurati alla persona diffamata, ecco, non vedo perché non possa essere concepito il carcere per i giornalisti. Questo lo dico e lo ribadisco, siccome non mi dà fastidio appartenere ad una casta e non me ne frega niente delle caste, credo che con lo scritto e con la penna si possano provocare dei traumi, danni, si possono provocare dei danni incredibili che possono in alcuni casi molto limitati eccetera eccetera portare anche alla galera. Non è una follia pensarlo. Esattamente. Posso dire una cosa su Renzi da Firenze? Sì. Allora, per me Renzi è un po' un Berlusconi light, no? Un Berlusconi light. Leggerino. E poi su Firenze non è che abbia fatto tutte queste grandi cose, eh? Cioè, voglio dire... Non lo so, Vittorio, quello di solito lo si valuta quando uno poi va, si ripresenta alle elezioni, eh? Sì, sì, però insomma c'è tanti, come posso dire, aziende che chiudono a Firenze, si può pensare al lavoro, la tranvia è partita una linea sola. Il lavoro, sa, non è che lo risolvo, non lo risolve il sindaco, il problema di lavoro di una città. Così non si può fare. Comunque grazie mille. Mirta da Roma, buonasera. Buonasera. Senta, le posso fare una domanda? Sì. Secondo lei, se Sallusti fosse andato in carcere... In carcere vere, i titoli dei giornali di oggi quali sarebbero stati? Ha ha ha, meglio Regina Celi che Re Bibbia, così? Oppure sarebbero stati tutti, è un'ingiustizia, un direttore in carcere? Beh, un'ingiustizia, eccetera, eccetera. Ecco, allora, visto che comunque a lui gli hanno, non è che gli hanno tolto la condanna, l'hanno solo spostato da un posto a un altro. Temporaneamente, perché non è detto, giornali... perché non è detto che la decisione verrà poi confermata. Allora? Allora i titoli del giornale sono permessi ironia, ma la cosa che è persa di vista è che questa persona comunque in un caso o nell'altro non avrà più la libertà per 14 mesi di poter decidere liberamente di quello che vuole fare della sua vita. Quindi tutta questa ironia... Sì, ma c'è una condanna, eh? C'è una condanna. Appunto, perfetto, c'è una condanna. Allora, questa ironia... Guardi, almeno... A che serve? A che c'è? Non lo so, per fortuna viviamo... Del di vista. No, guardi, grave, per fortuna viviamo in un paese dove è consentita anche l'ironia nei confronti di casi di questo tipo. Poi ognuno può fare le discussioni. Però nessuno avrebbe fatto ironia su Re Bibbia piuttosto che San Vittorio o Regina Ceri che sta in centro a Roma, allora magari un no, certo che no, perché non ci sarebbe stato motivo. Dopodiché, a parte che ci sarebbe stata ironia lo stesso. Ma non lo so, ma sì, si sarebbe i più bravi avrebbero trovato il modo di ironizzare. Mirta, grazie. E poi aspetti, la stampa, guardi beh, caso, è quello che ha ironizzato di più, un giornale di Torino. Di dov'era il giudice a cui Sallusti ha fatto questi torti? Di Torino, guardi un po' la coincidenza. Allora a me mi viene proprio da pensare. Mi viene proprio da pensare che questa sia una cosa proprio architettata. Architettata anzi, da chi? Scusa. Una cosa, secondo me gli hanno fatto più danni immagine di tutto eccetera, dandogli gli arresti domiciliari, perché se fosse una impressione sarebbe stato il martire Sallusti che si è immolato per tutto l'ordine dei giornalisti. Bene, grazie, grazie Mirta. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica. Eccoci qui con una persona le cui fatiche stanno per finire, caro Parenzo. Stanno per finire. Dimmi volevo che c'è. Volevo tornare. No, volevo basta, tornare basta a con questa vicenda di Sallusti. Su Sallusti. Ancora, dimmi. No, per dire che io, ma perché chi si scandalizza perché si fa notare che la casa della Sant'Anché è molto bella, De Chirico, camerieri, eccetera, e che quello vive in una, che è in prigione, è fuori di dubbio che è in prigione, mi dispiace, una prigione dorata, ma sono dei minus abens, non Sallusti perché vive la condizione, poverino, quindi chi è in una condizione di ristretto è ovvio che si deve incazzare. Vabbè, allora? Ma tutti quelli che chiamano dicendo anche Parenzo che sottolinea, è una prigione dorata. Sei un cretino, non c'è nessun motivo di sottolineare che è una prigione dorata, è una prigione punto. Che significa una prigione dorata? Che ne sai? Che ne sai che è dorata? Che ne sai che è dorata? Che vuol dire? Dorata che vuol dire? Ma dorata che vuol dire per te? Dorata che vuol dire secondo te? Che vuol dire dorata? Che è una casa di 900 metri quadrati? Che è una casa molto bella, che è un posto molto confortevole, però è in prigione, questo la prigione dorata, senti, la prigione dorata. Non deve andare in prigione. Ma insomma c'è una differenza tra chi ha una disponibilità economica e può fare i domiciliari in un luogo e Mohammed Halu 4 che ma invece no, deve ma, andare... Ma che strano, c'è una differenza. Ha scoperto che c'è una differenza tra le case grandi e le case piccole, il signorino. Ha scoperto che c'è una differenza tra le case grandi e le case piccole. Sì, ricordare che Mohammed va in carcere. Ma chi se ne frega? Ogni... Allora di che è un privilegiato rispetto agli altri perché Bruti Liberati l'ha voluto salvare dal carcere. Dillo. Ma no, assolutamente. Dillo, no, perché alcuni magistrati... Ma lascia perdere il principio, ormai ci siamo in ballo. Alcuni magistrati del pool di Milano sono comunque in disaccordo con la decisione di Bruti Liberati di non mandarlo in carcere. Io sono d'accordo con Brutti Liberati assolutamente, però non doveva neanche finirci. Dopodiché sottolineare che è finito in un posto molto figo, ma pur sempre ai domiciliari. Ma che ne sai, lo conosci? Lo conosci? Come fai a dire che è figo? Non ci sono mai stato, ma se sono vere le descrizioni che hanno fatto, sicuramente è un bel posto. Però è sempre nella condizione di ristretto, su questo non c'è dubbio. È con noi Alessandra Moretti, portavoce della campagna di Pierluigi Bersani, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Come sta? L'ho vista ieri. Molto bene. Che dici, la bici l'hai vista ieri, Parenzo? No, che l'ho vista ieri di rosso vestita. Sì. Secondo me con una gonna un po' troppo corta per il pubblico del porta a porta. Io non ho visto porta a porta ieri sera, siamo Moretti. Com'era la gonna corta, ha messo? Ma io indossavo il mio vestito di laurea e quindi può essere che fosse un po' corto, perché quando ero giovane magari lo portavo un po' meglio, insomma. Non ho capito, ha indossato il suo vestito di laurea? Sì, del giorno della mia laurea, mi va ancora bene, caro Cruciani. Ma veramente? Sì. Una roba pazzesca. Anzi, mi sta anche un po' larghetto. Cioè, lei è dimagrita dal giorno della laurea, che ormai è di una decina di anni fa. Quando è che si è laureata lei? Certo, sì, è una decina d'anni fa. Una decina? No, di più. Che decina d'anni fa? Allora, 10, allora facciamo il conto. 39 meno... Beh, 39 no, 10. Sì, 13 anni. A 26 si è laureata? 25. A 25, allora 14 anni fa. 14 anni fa. Le vanno ancora bene i vestiti di 14 anni fa? Sì. Una cosa pazzesca, cioè risparmia da paura, ma le piacciono ancora quei vestiti là, perché quel vestito rosso non me lo ricordo. Io sono un grande cultore della signora Moretti. Mi dispiace, ma lei, quando uno c'ha gusto, mica si scherza. Cioè una nello staff di Renzi come lei non esiste. Come no? Ci sono tre ragazze brave, belle. Belle? Però una come lei non c'è, su una... Beh, io sono unica, voglio dire, ci mancherebbe, come tutte le altre che sono uniche nella loro unicità, caro. Cioè, chi è più bella, la signora Bonafè o la signora Moretti? Dovremmo fare un sondaggio qui. Cioè... Ma figurati se ti dico una roba del genere. No, non mi devi dire niente, io infatti lo sto... Ma lo devi dire, ma non lo sto dire dicendo lei, a lei, non lo sto dicendo a lei, sto dicendo al grande pubblico che abbiamo. Voi, esatto. Io dico... Tu che dici, Parenzo? Io dico che sono due persone diverse, cioè è un po' come dire, c'è cioè a chi piace la pasta al pesto e a chi piace la pasta agli olio e peperoncino. Vabbè, adesso ecco. Non esagerare, insomma. Lo sai che ha detto la pasta con l'anduia e la pasta con la zucca, sono due gusti diversi, no? Lo sai, come Renzi e Bersani? Sono due gusti diversi, non si possono mangiare insieme, sai, fare un casino, cioè non è che tu puoi mangiare la pasta, mari e monti, funghi e salmone, che è eccezionale. Comunque non ho visto la luna, adesso vado sul sito di Porta a Porta e rivedo un po' la puntata di ieri. Sono d'accordo con Parenzo. Riguardala perché, Parenzo, che dicevi? No, perché il vestito era molto bello. Io, secondo me, per il pubblico di Rai 1, che è anche un po' clericale, quella donna era un po' eccessiva, ma lo dico con affetto. Ma non era corta, Parenzo. Era corta, ma tu sei un guardone. No. Era corta. Ma io sono un po' bacchettone di mio, Sono un bacchettone di tuo, cioè non... Comunque, qui qualcuno già risponde su Twitter, meglio la Moretti rispetto alla Bonafè. Vabbè, comunque, ma queste sono sciocchezze, dai. Ultra sciocchezze, non sciocchezze, siamo nel campo dell'estetica, assolutamente. Ha sentito cosa ha detto oggi Renzi di Bersani? Addirittura che quello che ha creato Equitalia. Beh, insomma, un'accusa gravissima questa qua, Ha creato Equitalia, gli ha dato pieni poteri a Equitalia. Beh, insomma, un attacco diretto. Scusi, la giustificazione è giusta secondo lei? Cioè, bisogna portare una giustificazione cartacea per domenica oppure se ne può fare a meno? Ma la giustificazione che cos'è? La giustificazione del fatto che non ci si sia registrati? Esatto, brava, sì. Bisogna portare una cosa... Una cosa con la carta, con le carte bollate, oppure uno va là e va bene lo stesso e passa in cavalleria? Ma 21 giorni per registrarsi mi sembra un tempo abbastanza lungo, voglio dire. Ci sono persone che non l'hanno fatto, che ne facciamo perché? Con queste persone? Beh, magari se uno dimostra di aver avuto il gesso per 21 giorni, un ricovero in ospedale per 21 giorni col gesso, mani e piedi, sì, certo, è giustificato. Ah, in questo c'è questo caso limite, diciamo, no? Beh, scusi, se ho avuto mia nonna, se ho dovuto assistere mia nonna col catetere? Col catetere, beh, perché sua nonna non le dà neanche un quarto d'ora o 10 minuti per registrarsi, su Cruciani, dai. Cioè, dunque, secondo lei praticamente dovrebbe andare... Casi eccezionali, applichiamo il casi regolamento che non abbiamo fatto noi, tra l'altro, né io né Renzi. Beh, né insomma, Bersani. Come no, la maggioranza del... No, un collegio dei garanti che ha stabilito le regole che sono state accettate da tutti, anche da Renzi e dal Dunque, suo casi eccezionali. Dunque, secondo lei la platea si amplierà di quanti? Poche migliaia di persone? Ma sì. Poche migliaia penso di persone, di... più o penso meno. Sì. Più o meno. Penso di sì. A questo punto, insomma, che ci andiamo a fare? Dai, è tutto scontato? Ma o no? Insomma, senta un po', il ballottaggio l'ha voluto Bersani, perché se fosse stato per Renzi non avremmo neanche fatto il ballottaggio, avremmo vinto subito. Avreste già vinto, dice lei, no? Certo. Ma perché allora sì. Renzi e i suoi, come ha detto qualcuno qua ieri da noi, piagnucolano un po' su questa storia delle regole? Cioè di poter far entrare tutti sostanzialmente. Cioè, per esempio, io no, non so, ero domenica, lo ripeto per l'ennesima volta, alla Maratona di Firenze. No, no. Con Renzi, ma Renzi, vuol dire, io sono andato a Firenze, ci sono tante persone a Firenze, c'era pure Renzi. Sì. e dunque non ho potuto votare perché in realtà ma io... No, ma Cruciani, lei sta facendo confusione. Se lei ha in tasca la registrazione e non ha votato domenica scorsa, posso votare, può votare. Se lei invece non ha la registrazione e non ha votato, non voterà Cruciani, non perché voterà. Lei non stava male, non stava male, ma stava benissimo. Dio, solo chi è stato male allora. Ma io dovevo lavorare. Ma chi è però? Impossibilitato per 21 giorni, ragazzi? Su, l'italiano è chiaro, mica me lo... E poi le regole... Beh, io ero impossibilitato. Parenzo, dai. Cioè, non uno... vuoi essere impossibilitato. No. Cioè, lei dice, uno bastava che andasse su internet, si registrava... 5 minuti su internet ed era fatta. Ma certo, su. Ed era fatta. Certo. Forse ha ragione. Sì. Un po' è così, però voglio dire, perché impedire a nuove persone di andare al secondo turno? Scusi. Ma perché queste nuove persone non hanno votato al primo turno? Perché non ci hanno pensato? Ma no, si arrangiano, il voto è sacrificio un pochino, sapete, non è che uno... Ho capito, ma perché impedire a queste persone? Perché impedire di andare a votare? Ma perché la platea del centro-sinistra, voglio dire, si è già allargata abbastanza per quanto mi riguarda, per quanto ne so io, In che senso? Insomma, che sono venuti a votare anche quelli che non sono di centrosinistra. Vabbè, ma non è che ce l'hanno stampato in fronte, siamo retti. Comunque, ragazzi, guardiamo il dato. 3.100.000 persone sono venute a votare domenica, allora? Un numero straordinario. Secondo Renzi, quelle regole, le regolette avrebbero impedito la partecipazione, che è stata invece straordinaria. Sì. Per cui non c'è nessun problema. Io credo che le regole sono quelle che sono state, diciamo così, stabilite dal Collegio dei Garanti, a cui partecipa un Berlinguer, un Luigi Berlinguer, che è persona assolutamente seria, ha detto che non vuole che non bisognerebbe chiedere la cartuccella, ha detto sì, ma le regole fa lui. Se loro decidono così non si chiederà la cartuccella, se decideranno diversamente si rispetterà quanto decideranno, cioè non sto io qui a decidere chi, per me può essere allargata la platea, tanto comunque secondo me quelli che vengono a votare sanno bene per chi votare, non c'è nessun problema. Scusi, oggi quanto è più vicino Palazzo Chigi per il suo Bersani? Quanto è più vicino? Insomma, abbiamo vinto bene con un distacco di oltre 9 punti, mi sembra, insomma, Palazzo che... Chigi è molto vicino, Beh, sì, insomma. Ma guardi che adesso noi affrontiamo con grande serenità questo ballottaggio, ma anche con grande serietà, perché ma è un dettaglio, però è una passeggiata. Non è un dettaglio, è una bella sfida che noi giochiamo, giochiamo fino in fondo. Vabbè, la sfida è d'accordo, però insomma, è una pratica in carrozza. È in carrozza, su. O no? Vogliamo fare in modo che il candidato di centrosinistra abbia la più ampia legittimazione popolare. Vabbè, ma questa è la dichiarazione da porta a porta, da portavoce. La portavoce è da porta a porta, da portavoce e da porta a porta. Ma lei non mi guarda, per cui. No, ho visto adesso, mi hanno mandato su Twitter la foto, ma non è così, Parenzo, ma che non ti sei inventato? Corta. No, ma è un bacchettone, Parenzo, un bacchettone veneto, un po' bacchettone. Ma non è che bacchettone, è che vede delle cose che non esistono, si è immaginato delle cose che non esistono, ha fantasticato. Io sono... Ieri, tra l'altro, eri con tua figlia alla sera, dunque ti sei addormentato, hai addormentato tua figlia. Poi eri mezzo stralunato così da una cosa all'altra, hai guardato il televisore male e hai visto una Moretti quasi nuda, ma in realtà non è così. Appunto, dico, non è così. Non è così. Questo mi vedo. La gonna, io sono abbastanza meridionale in questo e reazionario. Ma non è vero, mi hanno mandato le foto. Mi hanno mandato le foto. La gonna debba stare sotto il ginocchio, 4 cm sotto il ginocchio, però poi figurati. Su questo Parenzo ha ragione, cioè se lui le intende 4-5 centimetri sotto il ginocchio, la mia non era 4-5 centimetri sotto il ginocchio. Ma sì, ho capito, ma quello è la bindice là forse, o no? Ma no. Per carità, detto con tutto il rispetto. È molto bello il vedo, non vedo. Non fate le battutacce cattive. Era brutta sulla bindi? Ma non fate le battute. Ma no, vabbè, ma la bindi va bene, per carità, ma poi ognuno ha le gonne che si può permettere, non è che tutti si possono permettere le stesse gonne, no? Ma anche su questo, su questo bisogna essere anche non ipocriti, non bisogna essere ipocriti, non è che non tutti, non sto facendo nome, bravo. Non è che tutti si possono permettere esattamente le stesse gonne. Neanche gli stessi pantaloni comunque, le stesse camicie. Assolutamente, vale anche per voi uomini. Vale anche per gli uomini, anche per gli uomini, assolutamente così. Comunque, lei è stata molto chiara su questo, la platea del centro-sinistra si è già allargata abbastanza, mi sembra che sia chiaro. Dunque, certo, 3.100.000 persone che sono venute a votare, è una platea abbastanza. tantissima. L'Amazzone di Bersani, le piace essere chiamata? Io ma sono che Amazzone? Sì, sì, lei è l'Amazzone di Bersani. Lei è l'Amazzone. Io sono un'appassionaria, caro Cruciani, perché mi appassiono le cose che faccio. Benissimo, guardi che le Amazzoni non erano delle, come sono state descritte quelle del PDL, sono delle figure, mitologiche, di, insomma, di una certa, di un certo spessore, non sono delle... Sì, lanciavano, erano delle guerriere. Appunto, ma lei non si sente un po' guerriera di Bersani? Sì, su, un po' di l'Amazzone di Bersani non è brutta come cosa. Ma io le mie sfide, le mie battaglie le affronto con grande passione. Ma chiamateci come volete, tanto cosa volete, non conta più di tanto. Beh, come non conta? Conta. Amazzoni, non Amazzoni. Tanto ormai è fatta, dice lei, no? Ma no. lo sai che ha detto Renzi? La Bindi soffre quando va in televisione Alessandra Moretti. Cioè, quando vede in televisione. Ma non è che soffre anche Renzi un po'? Perché? Perché magari soffre anche lui quando la vede in televisione, certo. Perché dice? Ma non lo so, vede una ragazza, una sua coetanea, anche lei, che non fa parte, non è una funzionaria di partito, poco ideologica, che parla come parlano le persone normali, no? Ma no, non contento, soffre. È non contento, soffre. Ma Renzi è contento quando mi vede, tutta perché? Salute. Perché? Ma perché ti sto simpatica, su. Ma cioè, non è che sotto sotto, no? Ci stimiamo, che sotto sotto, Cruciani, non faccia no, Renzi, intesi. Dico, sopra Renzi. Sopra no. Sopra. No, Renzi, non è che... No, vabbè, no, niente. A parte che la devo correggere su una cosa, lei dice siamo Moretti, la platea si è già allargata abbastanza, ma hanno votato meno persone dell'altra volta. Quanti eravamo? 3.100.000 più o meno lo stesso, poco meno dell'altra volta, cioè, non è che si è allargata, è rimasta sempre la stessa la platea, cioè, non sono stati 4 milioni o i 5, addirittura i 6 credo la prima una volta. Ragazzi, ma guardate che è cambiato il mondo anche, nel cioè senso la gente che nel frattempo... non va più. Beh, c'è un po' di disaffezione in Italia, mi sembra, un 40% di astensionismo, per cui insomma, questo è un risultato straordinario in questo momento storico. Senta, ma allora la sa Bandiera Rossa? Sì. No, secondo me non la sa. Non la so? Vuoi sfidarmi? Vai. Parenzo, io non lo so perché mai è stato comunista. Vado? Parenzo sì. Via, un attimo. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo alla riscossa, bandiera trionferà. Bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, evviva il comunismo e la libertà. Vabbè, questa è la più facile, poi c'è la seconda che è complicata. Qual è? Avanti. Questa la so tutta. Parenzo, tu la sai? Antipopolo, fuori il cannone, rivoluzione, vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far, e qui arriva l'ossimoro, rivoluzione, noi vogliamo far, ecco l'ossimoro, e viva il comunismo e la libertà, e questo è un po'... Vabbè, Alessandra Moretti sapeva solamente la prima parte, diciamo quella più scontata, però va bene lo stesso. Parenzo, io mi eccito quando c'è fuori il cannone rivoluzione, lì mi eccito, devo dire. Parenzo. Poi c'è dai campi al mare alle miniere, com'era Parenzo, tu la sai? No, com'è? Compagni, com'è? Dai campi e dalle officine. Prendete un'altra, la mare, pugnate il martello, scendete giù in piazza, siete il pacifismo e questa è contessa. Sì, è contessa. Sì. Com'è Parenzo? Com'è? Ma senti il pacifismo, scendete in piazza e affossate il sistema. Poi gente per bene, aperta parentesi Cruciani, che pace cercate, la pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti Cruciani finir sotto terra. Ma perché? Che c'entro io? Scusa. Perché sei un borghese, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere un compagno. compagno. Ma Parenzo è molto più Parenzo comunista di qua. Ma lei era, a confronto di Parenzo, era democristiana, in parte l'è stata pure quando era ragazzina, magari. Ma io non sono comunista. Ancora? No, no, basta, abbiamo già dato su quella vicenda. No, bravo, dai. Abbiamo già dato. Però scusi un attimo, c'è una cosa interessante. Ha sentito Renzi in quel fuori onda Radio 105 la settimana scorsa che ha detto che vuole portare un piccolo drappello di suoi deputati, comunque vada, alla fine porterà i suoi in Parlamento, eh? Ma non era un fuori onda, eh? No, fuori onda, vabbè, noi lo chiamiamo fuori onda, ma in realtà era una cosa voluta, diciamo. La trasmissione, no? Cioè, chiama in onda. No, fuori onda. Quella non c'entra niente. Vuole chiedermi? Paraculo, no? Ma che... Ma... Paravento in questo caso, no, alla fine fa la ma battaglia. No, anche perché lui si è sbagliato lì, non voleva dire, cioè? Così, perché lui che punta molto sul merito e le competenze, gli amici mica sempre hanno merito e competenze, per cui insomma si è sbagliato, ha detto una cosa che non voleva dire. Insomma. Ah, non sì. Com'è così protettiva nei confronti di Renzi oggi? Non è così, non va così all'assalto nei confronti di Renzi. Oggi, tra l'altro, no, che... ma mica si deve andare all'assalto, adesso ci stiamo un po' rilassando, su, dai, siamo arrivati quasi alla fine. Lei però ultimamente ne ha detta una grossa, eh? Ne ha detta durante questa campagna elettorale, ma giustamente, perché una persona ha le prime armi io lo so perché la difendo, perché è vero che lei ha fatto un sacco di gaffe, un po' di gaffe, ma è normale, una persona che qualcosina, ma, sì. Ma però mi piace perché comunque ci scherza sopra, dice sì è vero, vabbè, allora sì, ho detto questa cosa qui, ride, scherza, alla fine fa parte del gioco, cioè se uno si mette in prima fila, poi alla fine succede pure che commette degli errori, può anche sbagliare. Che vuoi, Parenzo? Che c'è? Ma perché mi chiamano sotto? Perché la donna di servizio mi chiama sotto durante la trasmissione? Beh, diglielo. Lei ha detto l'apparato, sì, rispondi, l'apparato non è Bersani, allora, come ha fatto a dire una cosa? No, che chiudi. Ma non c'è più l'apparato, Cruciani. Ma come non c'è più? Ma sono cambiati i partiti, sono cambiati in maniera. Ma ha visto al sud i voti che ha preso Bersani, molti di più di quelli di Renzi. Scusi, ma lì è lì l'apparato. Ma noi siamo stati molto. Guardi che noi il sud bisognava andarci e starci molto, perché il sud sta soffrendo molto in questo momento. Vabbè, adesso una votata per Bersani. No, non è che è stata una scelta politica. Io sono andata molto, sono andata in Sicilia, sono andata in Calabria, sono andata in Campania, sono andata in Basilicata. Cioè è stata una scelta politica quella di dare un'attenzione particolare a quelle terre dove la sofferenza è più alta, soprattutto in alcuni contesti, il lavoro, ma il precariato, guardate che al sud. Però come fa a dire che l'apparato non è Bersani? Scusi, l'apparato... Ma perché non è Bersani? Ma scusate, io sono l'apparato? Vabbè, ma no, lei no, ma... Gli amministratori locali sono l'apparato? Comunque, I parlamentari sono l'apparato? Chi è l'apparato? Vabbè, l'apparato è la struttura del partito, moltissimi segretari di partito erano dalla parte di Bersani, questo un po' pesa. Ma non sono più l'apparato, non rappresentano più l'apparato. Guardate che i segretari di partito sono dei ragazzi giovani nella maggior parte. Vabbè, ma lasciamo perdere l'età, ma comunque conta il fatto che erano moltissimi dalla parte di Bersani, ma non è mica un delitto. Che quasi tutti i giovani democratici sono dalla parte di Bersani, ma i giovani democratici mica sono l'apparato. In che senso quasi tutti i giovani democratici? Come fa a sapere? Ma lo so, ma perché ho girato l'Italia, lo so bene. Sì. I giovani stanno con Bersani, la maggior parte dei giovani stanno con Bersani. I giovani democratici, che voi sapete, no? I giovani democratici sono una struttura. Vabbè. Ecco, questi, e sono migliaia e migliaia di giovani, hanno appoggiato il segretario perché hanno visto il segretario come si è comportato in questi 4 anni, la grande legittimazione, la forza che ha dato ai giovani, ecco la responsabilità che ha dato. Adesso. Ecco la Mazzone. Ecco adesso la forza. Ma è vero che lei è con suo padre? È vero che è con suo padre in macchina? Eh? È vero che è con suo padre in macchina? Sì, mi è venuto a prendere in stazione, poverino. Che bravo. Ci passi il papà un attimo. Passo il papà Sergio Ma è comunista anche lui? È stato? Ma lui è proprio comunista. Cioè ma veramente? Di qualcosa. Qualcosa di sinistra? Buonasera, signor Sergio. Buonasera. Come sta? Come va? Cosa devo dire? Qualcosa di sinistra? Ma lei è più comunista? Sua figlia, innanzitutto partiamo da sua figlia. Sua figlia, mi dica la verità, era un po' di centro. Cioè non era proprio così di sinistra. Allora le spiego. La verità, nient'altro che la verità. A 3 anni partecipava alle manifestazioni della CGIL Scuola, perché il padre, che sarei io, era segretario provinciale della CGIL Scuola. Quindi lei che era comunista? Io ero del manifesto in quel periodo lì. Cioè, fuori dall'istituzione. Sì, diciamo, fuori no? dalle istituzioni. Cioè, dall'istituzione del PC. Io sono entrato nel PC nel 77, se devo dire. Nel 77. Dunque, a tre anni sua figlia, e poi ha sempre votato comunista di SPE o no? Oppure qualche sbandata? Mia figlia sempre, si è sempre orientata per partiti di sinistra, devo dire. Per partiti di sinistra. Ha fatto quell'esperienza dei under 35 insieme a questa chiamiamola così, associazione di giovani che appoggiava quella. Comunque. Per me ha fatto una bella esperienza. Ma lei è orgoglioso adesso del fatto che sua figlia è diventata la portavoce della campagna di Bersani? Mi dica la verità. Il mio orgoglio è pagato un prezzo molto elevato. In che senso? Mi sto allevando, si può dire così, sì? Due nipotini di 4 e di 6 anni, perché la mamma è in giro per l'Italia 4 giorni alla settimana, e questo lei capisce. E lei si deve scarrozzare, non solo sua figlia oggi è andata a prendere, eccetera. E la vado sempre a prendere, perché quando rientra è sempre un bel momento per me e per i suoi ragazzi. E in più? Ma che bello. Io ho questi impegni, io che sono stato nella scuola per 40 anni come insegnante, alla fine come preside, adesso devo fare anche questo lavoro di babysitteraggio, sto riprendendo dalla scuola dell'infanzia. Capito Parenzo? Impara. Volevo sapere, gliel'ha mai portato a cena o a colazione Bersani a casa? No, ancora non me l'ha presentato. Ma si rende conto o no? Lei vota Bersani, sa va a San Dino. Renzi a cena? Neanche Renzi a cena, non mi ha portato nessuno. Io vorrebbe Renzi a cena? Sì. Ma sì, perché è un ragazzo simpatico, la battuta pronta, quindi spiritoso. Cicchitto a ma cena, che c'entra Cicchitto? Cicchitto proprio mi sembra un po' più noiosetto. Mi dà l'idea di essere un po', come si dice, passato. Non lo vorrebbe Cicchitto. Scusi, lei vota Bersani? Potrebbe essere un format televisivo, certo, Cicchitto a cena. Sava Sandir, no? Vota Bersani, Sava Sandir. È chiaro, vabbè. Perché posso votare se non per Bersani? Ma sì, ma certo, per carità, assolutamente. Ah. Vabbè. Comunque, volevo sapere Parenzo per chi vota. Perché Parenzo vota per Bersani. No, non sono perché andato. Ha un passato da 68, non da poco, per ricordarsi tutta contessa così bene. Io sono del 76, però, quindi è difficile che sia il 68. Mi scusi, allora è un giovanissimo. Allora è uno che il 68 se l'è sentito raccontare. Sì, esatto, è diventato comunista senza aver vissuto. Senza aver vissuto le stagioni. Che è la cosa peggiore. Certo. Io mi sento molto vicino a Lotta Continua, per la verità. Si sente anche dal tono. Va bene, signor Sergio, lei è molto simpatico. Grazie. Anche voi siete splendidi, continuate così, arrivederci. Ci passi suo figlio un attimo per così la salutiamo. Eccomi ragazzi, eccoci qua. Vabbè, sta per finire, è finito, ormai domenica è finita. Domenica è finita. Anche Fede ha detto che vota Bersani. Ha sentito, sì. Emilio Fede. È un bello endorsement, le fa schifo questa cosa, no? Cosa? Le fa schifo? Almeno uno di centrodestra hanno tutti dichiarato che voterebbero Renzi, lui invece vuole andare a votare il ballottaggio e votare Bersani. Almeno Fede. Ci becchiamo Fede, cosa vuoi fare? Un po' vi danneggia questa cosa. Se viene ai seggi non è che lo mandate via. Non ci danneggia. Poi voglio vederlo se va a votare. Comunque suo padre non è male, eh? Molto simpatico. Sai com'è il buon sangue. Ci ha confermato tutta questa storia. Ma a casa non vi chiamate compagni, ci dico compagni, compagna passa al sale. Vai, no. Dai, su, smettila, imbecille. No, ma sei rimasto a non so quando, ma figurati. Ma... No. Compagno Cruciani, passami l'acqua. Per carità, che sei fatto. Eccoci qui, la zanzara, Marco da Torino, buonasera Marco. Volevo darle ragione su una cosa, a lei e non a Parenzo, parlando di Sallusti. La prigione non è una prigione dorata, è una prigione, perché se io avessi potuto scegliere avrei scelto la galera. Perché la Sant'Anché averla in casa, quelle poche volte, perché è sempre in torno, ma quelle poche volte che è in casa ha una frequenza proprio come i fischietti del cane, uno non la riesce a sopportare, deve subito girare la televisione. Volevo solo fare questo appunto. Cioè? Non si può parlare di prigione dorata, ma semplicemente di prigione. Certamente sì, perché io avrei preferito la galera vera che stare in casa con una Sant'Anché. Vabbè, stupidaggine. Non riesco a sopportare la frequenza. Vabbè, ho capito, ma questo saranno affari di salute, scusi. Ah, sì, sono affari suoi, poverino, purtroppo, sì. Poverino, purtroppo. Certo, sì. Perché? Poverino, purtroppo. Come le dico, la Sant'Anché non ha una voce, ha una frequenza, come i fischietti per allontanare i cani o quegli attrezzi per gli scarafaggi, che quando li attacchi scappano tutti. E per lei questa frequenza è insopportabile? Sì, no, per me è insopportabile. Allora, senta questa. Quando la sento in televisione, no. Cosa fa? Vomita? Che fa? No, da di corpo. Devo cambiare per forza. Da di corpo. Spacco la televisione. Addirittura. Beh, sì. Senta questa, bisognerebbe riprodurla a teatro. Maccox, che è uno splendido, meraviglioso vignettista, chiamiamolo così, ma in realtà, insomma, un come lo possiamo chiamare? Parenzo? Battutista, un... Vabbè, vignettista. Battutista. È la Sant'Anché che parla, dunque ci vorrebbe una donna. Hai abbassato la tavoletta, ricordati di abbassare la tavoletta, c'è sta lustra in casa. Ora che divento premier faccio una legge che prevede la morte per chi non abbassa la tavoletta. Del bagno, evidentemente. Mica starei con le scarpe sul tappeto, vero? Ora che divento premier faccio un decreto. Urla dalla cucina o da un'altra stanza la Sant'Anché. E c'è un Sallusti con il telefono attaccato all'orecchio, tutto sudato, che parla piano piano con qualcuno al telefono. Venitemi a prendere, mi sentite? Non posso parlare più forte, venitemi a prendere, porco cazzo. Mi va bene Re Bibbia, mi va bene Poggio Reale, mi va bene Shalva Schnick, mi va bene la Cappadocia, mi va bene Pyongyang, sì, confermo, va bene l'Île du Diable con quelli della lebbra secca. Hai capito? Ma fate presto. No, devo dire se credete in un Dio misericordioso, fate presto. No, penso che si salvi per il fatto che è molto in televisione e poco a casa, probabilmente. Ora, si può scherzare così, secondo te, Parenzo? Sì, naturalmente. Sì. Dai, su. Intanto si può scherzare, capisco, però soprattutto dolore... se lo fanno i satiri, se lo fanno queste no, persone qui. Soprattutto perché il cinismo... giusto cinismo che ha dimostrato della sua professione, è un professionista nel suo modo, Sallusti, è stato un grande direttore, vende un sacco di copie del suo giornale, il cinismo che ha dimostrato nei suoi titoli, ha ragione chi dice oggi, che poi nessuno fa nessuna ironia, adesso sull'ironia d'accordo, ma voglio dire, qui è una prigione dorata, ma smettiamola. L'hai già detto, voglio invece ricordare... Ti dico di più se vuoi. Dominique Strauss-Kahn fu mandato da Anna Sinclair, da sua moglie, agli arresti domiciliari nella bellissima super casa di Parigi. Tutti i giornali scrissero la prigione dorata di Dominique Strauss-Kahn, sottolineando che c'erano camerieri, cene... Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera, come sta? Bene, grazie, lei? Massimo Bessone, consigliere comunale della Lega Nord e PDL. Non riesco a capire questa cosa. Consigliere comunale della Lega Nord e PDL che vuol dire? Che quando sono stato eletto facevo parte di una lista comune tra Lega Nord e PDL. Ah, coordinatore Lega Nord, Isarco e Pusteria, giusto? Sì, giusto. Trentino Alto Adige. Lei oggi ha scritto una cosa che è una minchiata pazzesca, lei lo sa, no? Sì, era uno sfottò calcistico. E Parenzo, sei informato? Parenzo, sei informato? Uno sfottò calcistico l'ha definito. Non sei informato, che cosa ha detto? Parenzo, volevo sapere se Parenzo è informato. Facciamo questo, signor Bessone. Non mi occupo di notizie locali. Non è una notizia locale, è dappertutto su tutti i siti italiani oggi, Parenzo. Non mi occupo di minuzie. Vabbè, non hai letto. No, di bricciole. Ma intanto con chi sto parlando, mi scusi? David Parenzo, dall'altra parte. Conosce il signor Parenzo? No, mi perdoni, non so neanche chi mi abbia... meno male. Questa è Radio 24, la Zanzara, l'abbiamo contattata prima. Signor Bessone, sono Cruciani, buonasera. Sono felice che non mi conosca, guarda. Allora, consigliere della Lega, consigliere comunale a Bressanone, si chiama Massimo Bessone, ha scritto oggi sulla sua pagina Facebook, tifoso del Verona, lei? No, sì, sono sono tifoso del Verona. Non ho scritto, c'era una pagina dell'Hellas Verona nella quale scriveva. Una pagina dell'Hellas Verona, in cui lei ha scritto. Nella quale scrivono che il Verona era atterrato all'aeroporto di Palermo. Palermo. Io, scherzando, per fare uno sfottò calcistico, ho scritto: ah, ma è la prima partita in Africa della nostra squadra. Volevo solo fare uno sfottò riguardo ad altri sfottò che c'erano lì, e non era assolutamente una cosa né politica né contro un popolo ricco di cultura, di storia, così. È stata strumentalizzata, mi dispiace che abbia urtato qualcuno, ma non era certo assolutamente una cosa, torno a ripetere, né politica né contro nessuno. Era uno sfottò calcistico e speravo che venisse preso così, e purtroppo non è stato, ma non era certamente una cosa né contro i palermitani né contro nessuno. Questa è la sua giustificazione a posteriori, dopo certo, che sono scoppiate le polemiche, per carità, ma va benissimo che lei inquadri quello sfottò e quella frase, però devo dire la verità, caro Bessone, quando uno scrive su una pagina Facebook del sito del Verona, ma su un qualsiasi tipo di portale o su qualsiasi giornale, è la prima partita ufficiale in Africa per la nostra squadra, non è che lo scrive per dare un'indicazione geografica, non è che lo scrive per dire si gioca vicino all'Africa, lo dice perché intende per Africa il terzo mondo, cioè dire adesso non era certo un'offesa del genere, ma comunque. Ma guarda che il terzo mondo ha la sua... Ce ne sono tanti, ce ne sono di peggio. Era una sciocchezza, ed è stata malinterpretata. Guardi, non c'era assolutamente la volontà di offendere nessuno. Poi è giusto che ognuno faccia il proprio lavoro, chi ha creato questa polemica, qualsiasi cosa, ma non c'è nulla di politico e nulla... No, ma la politica non c'è... La politica... No, perché che il fatto che io sia consigliere o altro non c'entra assolutamente niente. Era uno sfottò calcistico... No, il fatto che lei sia consigliere è un dato di fatto, che lei sia consigliere comunale a Bressanone della Lega... Ma non è... Certo, non è, però in questa occasione non c'entra assolutamente niente. Che io sia consigliere è senz'altro un dato di fatto, ma non è certo una cosa contro nessuno. Perciò era solo. No, ma era una cosa contro la Sicilia. Era una cosa. Una battuta, mi perdoni, guardi. Era certo che era una battuta, non c'è dubbio. Però non è. Io in Sicilia ci vado spesso, è un posto meraviglioso, fatto di persone meravigliose. Era uno sfottò calcistico tra tifosi. Guardi che quello che scrivono negli stati, qualsiasi cosa, non sono certo cose che vogliono urtare, sono cose calcistiche che devono rimanere in un contesto calcistico. Poi ho sbagliato a scrivere quella frase lì, mi dispiace, ma era uno sfottò calcistico. Ma come l'è partita la cosa? Come No, ma era, siccome ho letto di altri sfottò che c'erano lì e le classiche frasi che si dicono tra tifosi, e ho scritto questa cosa qui, però come torno a ripetere non c'era la volontà di offendere nessuno. Ma la volontà precisa scientifica, ma sì, ma anch'io, però no, nel senso che capisco che questo, cioè la cultura è quella lì, quella sua, cioè è questa idea che il sud è Africa eccetera, è talmente innato in lui, non mi mette in bocca parole e cose che non penso affatto. No, aspetti Bessone, no, però testo politico, una conversazione, quella lì era uno sfottò calcistico, il tale deve rimanere, non è nulla contro la Sicilia né nulla contro... No, ma non c'è nulla contro la Sicilia, è per marcare... No, scusi, però... No, non è neanche corretto fare polemica, siccome c'è una partita tra un po', e già se io posso aver sbagliato a scrivere questo, sì, non è neppure corretto dire quello che sta dicendo. No, Parenzo sta dicendo una cosa, Bessone... Bessone, scusi un attimo, Parenzo non sta dicendo che lei è un criminale, sta dicendo una cosa. Che io ce l'ho con la Sicilia con nessuno. Voglio dire, però adesso non nascondiamoci. Battuta, mi perdoni, era una battuta, come se ne dicono tante, bisogna vedere anche il contesto, estrapolarla e dire, fare delle affermazioni del genere non mi sembra corretto. Guardi, se poi vogliamo crearci un caso, possiamo... Ma il caso c'è già, il caso c'è già, non è che lo creiamo noi, non è che l'abbiamo creato noi. Ne creiamo di casi, però questa volta non siamo stati noi, cioè è stato... Ha fatto tutto lei medesimo scrivendo quelle cose su Facebook. No, però io non la voglio mettere al patibolo, io sto dicendo semplicemente una cosa, che io la sto giustificando. Quando lei accosta la Sicilia, Palermo, dove gioca il Verona, all'Africa, in qualche modo conferma un atteggiamento culturale, che è quello di dire: beh, loro appartengono ad un altro tipo di zona geografica, ad un altro paese, ad un altro contesto, sono lontanissimi da noi, sono in Africa, in questo senso, dicendo sono proprio del terzo mondo. Vabbè, ho capito, questo è. Sennò... Guardi, questo lo dice lei, perché siccome non lo penso, neanche lo afferma. Ma lei ha ricevuto minacce? Lei ha ricevuto minacce per questa cosa? Certo. Cioè? Ma... Mi spieghi un po', che questo è grave, Anche questo è grave. No, ma mi scusi, appunto, se noi strumentalizziamo così la cosa, diamo anche ragione a queste persone. Io ho ricevuto delle minacce di tutti i geni, però non importa. Ma dove? Dove le ha ricevute? Su ogni mezzo. E comunque sia... su ogni mezzo che significa? Cioè, mi spieghi un attimo, mi faccia capire che tipo di minacce sono state, me lo dico seriamente? Guardi... c'è poco da scherzarci, comunque appunto non voglio scherzare, non importa finché sono a livello verbale, a livello di mail, di cose così, però voglio dire, la gente capisce che ha uno sfotto calcistico e così deve fermarsi, deve rimanere uno sfotto calcistico. Le dico, non è assolutamente nulla contro nessuno se non uno sfotto calcistico. Ma questo l'abbiamo già detto e ripetuto mille volte. Ma io voglio capire che tipo di minacce lei ha ricevuto, da parte di chi soprattutto, cioè che... Sono minacce di ogni genere, dalla morte a qualsiasi altra cosa, e non credo che perché vede, se io anche avessi sbagliato scrivendo questo, però era un contesto calcistico, ma se anche l'avessi affermato in un altro contesto avrei sbagliato. Il sindaco di Verona Tosi, grande tifoso dell'Hellas, dice: Bessone non conosce la geografia, non è nemmeno spiritoso. Ha fatto benissimo a dire così, e lui ha detto una cosa corretta, non poteva dire altro dopo aver letto questo. Però lei vuole chiedere scuse ai palermitani? Ma certo, se si sono offesi, mi scuso quelle persone di per carità, Palermo, non, essere, anni, non è che essere accostati all'Africa sia di per sé un'offesa, però è evidente ma non è giusto, dice bene, ma non c'era neanche la volontà di offendere, era solo una battuta. Ecco, a livello calcistico, allora, mi scuso con le persone che si ritengono offese da questo, era uno dei tanti sfottò calcistici messi in un contesto di calcio, di sfottò, perciò va bene. Mi scuso con chi si ritiene offeso, però voglio dire, si è creato per colpa di questa mia... Lei non si vuole dimettere, da qualcuno che... chiede le sue dimissioni, lei non si dimette? Ma non ha nulla a che fare con la politica, mi perdoni. Non era una cosa che ha assolutamente a che ma fare con la politica. La politica è tutto nella vita, non è che la politica si restringe. Lei è consigliere comunale, qualsiasi cosa dice o fa, appartiene al mondo della politica, non ha capito ancora questo, è una cosa molto semplice, non è così difficile. Quello era un contesto del calcio. Ma lei non può essere staccata, è come dice, io vado allo stadio a fare in curva a gridare contro un'altra squadra, sì, però sono anche un consigliere comunale, in quel momento però ero un tifoso, no, non è la stessa cosa. Sì, va bene, ma non ho fatto nulla di grave. No, ma non sto dicendo che lei va messo al patibolo. Però, guardi, con quello che sentiamo, che leggiamo oggigiorno, uno sfotto calcistico non penso che possa pregiudicare una qualsiasi carriera politica o qualsiasi altra cosa. Quello è e rimane uno sfotto calcistico. Va bene, non è no. Io su questo non sono d'accordo, perché in questo caso non ha niente a che fare col calcio, ma a che fare con altre cose. Ma no, detto questo, no, non ha, nessuno solo, la voglia. Non lo asserisce lei, perché lì era un contesto calcistico e aveva a che ma fare il contesto, con d'accordo. No, mi perdoni, ma se vogliamo crearne un caso, creiamo il caso, lei faccia pure il suo lavoro, però quello è e rimane uno sfotto calcistico, poi ognuno lo interpreti come vuole. Non me moleste moschito, non me moleste moschito. Marco da Verona, buonasera Marco. Buonasera signor Cruciani, siamo tutti agli arresti domiciliari, poveri italiani. Cioè gli italiani non possono uscire perché per l'economia, che non possono nemmeno andarsi a comprare qualcosa. Vabbè, non esageriamo. Siamo agli arresti domiciliari perché domenica molti italiani non possono nemmeno andare a votare, quando c'è stato una domenica un bel afflusso, gente spettacolare, gente che ha voluto in qualche modo spendere i 2 euro, ma ha speso del tempo, gente che è stata lì 14 ore in questi seggi senza prendere una lira, mentre quando ci sono le votazioni nazionali un contributo viene dato. Vabbè, tu, questo per dire? Per dire che noto che io arrivo dalle linee di Forza Italia. Cioè delle linee di Forza Italia, che vuol dire Marco? Sono stato al Parlamento Europeo, sono stato coordinatore per Forza Italia. Cioè lei era deputato europeo? No, sono stato collaboratore per un onorevole al Parlamento Europeo. Mamma mia, quanta nomenclatura! Ma chi? No, assolutamente. Ma chi, guardate, esattamente? È una bella esperienza, io l'esperienza l'ho fatta nel 2001. Sì. E, ma chi era questo? Chi era questo deputato europeo, se si può sapere? Sì, era Giacomo Santini. Ah, come no? Sì, sì, certo. È vabbè, stato uno degli eurodeputati più presenti al Parlamento europeo. Sì, sì, no, lo conosco. Ecco, sì, una persona che comunque ha lavorato tantissimo. Cioè, lei è stato sostanzialmente iscritto al PDL, militante del PDL, sì, collaboratore di un deputato europeo, eccetera, eccetera. E adesso? Adesso, domenica, ho fatto il rappresentante di lista per quanto riguarda Matteo Renzi. Ah, e da quanto è passato con Renzi? Ma diciamo da quando lui è venuto a Verona, che io abito a Verona, sì, ho cominciato così a ascoltarlo. Ma quando? Adesso sulla... A settembre. La partenza, per l'inizio, per l'inizio. Lei a settembre è entrato nel mondo renziano. Dopodiché, oltretutto, ho conosciuto anche un giovane sindaco della provincia di Verona che è stato quello che ha fatto l'apertura del dibattito dell'incontro di Matteo Renzi, che sì, è Federico Vantini, che è del comune di San Giovanni del Prototo, e ho visto aria fresca. Ma lei adesso fa parte dei comitati di Renzi? No, io guardi, sto entrando con le punte dei piedi, proprio sì, perché comunque... Però... Nel punto di piedi perché comunque io che arrivo da fuori non voglio fare l'invasore, voglio vedere come l'invasore si muove in caso degli altri. Vabbè, ma insomma sempre... che fa con Renzi là? Che fa in ma questi niente. Comitati? Ma io ho fatto il rappresentante di lista, sto andando in giro a parlare bene di Renzi perché mi sembra che sia l'uomo che possa sicuramente dare. E quanta gente come lei che era nel PDL adesso vota per Renzi? Guardi, che votano per Renzi, io le porto un esempio banalissimo. Guardi. Sì. Un passo indietro, maggio, Verona. Innanzitutto a maggio c'è stata una sessione del gente, consiglieri, amici miei del PDL, di Forza Vabbè, Italia. Vabbè, insomma, tagliamo... E hanno fatto la lista a Tosi. Sì, sì, e lo ricordo, sì. E difatti lei ha visto che quelli che non entrano in quella lista lì, che erano tutti di Forza Italia, sì, hanno preso... tantissimi voti, vede il vice sindaco di Verona. Vabbè, allora? Allora io dico che tantissime persone del centrodestra stanno andando a votare dall'altra parte perché comunque il PDL purtroppo è chiuso per fallimento. Ho capito, ma quante persone del PDL che lei conosce a Verona eccetera adesso sono con Renzi, hanno votato Renzi? Guardi, io credo, lei intende il percentuale o i numeri? Perché i numeri possono... Ma no, le persone che lei conosce, non voglio una statistica ma ufficiale. Ma guardi, un centinaio di persone sono andati a votare, che conosco io personalmente. Quante? Un centinaio. Che conosco così, che ci siamo trovati, sì, vado a però? Votare. Però cosa? Però sono molti di più, evidentemente. Sì, sì, sì, guardi che a Verona ha vinto sì. Renzi. Sì, sì, lo so. E dunque, cioè, allora c'è qualcosa che una città come Verona, di Lega, del centrodestra, vogliono comunque, noi a Verona vogliamo comunque cambiare. Ho capito, grazie Marco. Grazie. Paolo da Ravenna, buonasera. Buonasera, tu sai che più bel tweet che c'è, Parenzo, dimmi. Al vostro sondaggio. No, su... che è bellissimo, sulle primarie, sì, sulle primarie i mitici Spinozza.it scrivono terminato il conteggio dei voti alle primarie, a tabacci va la scatola del gioco, meraviglia. Paolo, dica. Eccomi qua, risponderei volentieri al vostro sondaggio tra la Moretti e l'altra signora, l'altra affascinante signora del PD. Sì. Secondo il mio punto di vista la Moretti è veramente una gran bella passera, proprio una bella figlia. Però noiosina, cioè la Moretti ci uscirei volentieri, ma dopo 10 minuti penso che mi demotiverebbe molto. Dice, è una bella donna, ti vedono in giro con la Moretti, sei un figo. Bah, però insomma, dopo un po' te la moscia, dai. Beh, adesso Paolo, sia proprio un maniaco. Sia tranquillo, sia tranquillo. Ma che ne sa? Magari... Ma non è radio porn questa, eh? Ma no, era semplicemente una pura impressione, eh. Però è una donna ma bellissima. Ma che non è un arrapato di primo livello, dai. È una donna bellissima, però questo c'è da dirlo, bisogna dirlo. Lei è un arrapato, si faccia una doccia gelata, su. Accetto il consiglio. No, ma subito. un'alleanza di centro per e la sfida questa sera è nel Horror Inno Show tra l'inno di Pionati, Alleanza di Centro per l'Italia, questa nostra patria da salvare, vogliamo difendere l'onore, vogliamo difendere l'onore chi non ha più santi da pregare, capito? Di chi è espropriato di ogni suo diritto, di chi è espropriato di ogni suo diritto, oppresso dal dovere tutto, capito Parenzo? Sì, mi sembra il testo, mi sembra questo di Pionati più intenso, l'altra mi sembra una marcetta che si fa quando si va a Rimini o a Riccione, il trenino sulla spiaggia e si mangiano i Kraffen con la crema, questo mi ricorda, ecco. Questo l'altro. Oppure no, l'altro, l'euro l'altro, di Mastella? Mi ricorda il trenino, quello di Mastella, la del trenino. Questo è più secco, Udeur verrà, cioè tornerà. Ci sarà ancora l'Udeur, una sorta di spettro, no? Una sorta di minaccia. È una maledizione. Una nuova realtà. Beh, una nuova realtà poi, non mi sembra. Riprendiamo ideali. Prendiamo ideali. Fiducia nel domani. Fiducia nel domani, vabbè, insomma, però. Nessuno. Che sono al centro di noi tutti e della società. La difesa della vita, la certezza nel domani, il sorriso di chissà. Ritrovare dentro al cuore il senso vero delle cose. Ritrovare dentro il cuore il senso vero delle cose. Scrivono quelli di Mastella. Cambierà. Cambierà con Mastella. La luce splenderà. Vabbè. Beh, l'Horror Inno Show. Presto vedrai, verrà. Chi è il più, chi è l'inno più orripilante tra questi due? Verrà. Qual è quello più terrificante, quello più scioccante? Lorenzo, di la tua, su. Ma sicuramente vederlo cantare e ballare da sentirlo, Mastella, sì. Facendo il trenino, sì. Ah, facendo vederlo, il trenino, sì. In quel di Cepaloni attorno alla piscina a forma di cuore. Sicuramente questo ha qualcosa di agghiacciante. No, secondo me l'altro è più agghiacciante. No, perché l'altro, almeno le parole l'altro è molto più agghiacciante. Intensissime, molto. Intensissime. Io scelgo come quello più agghiacciante, scelgo sicuramente Pionati. Questo qua è più agghiacciante. Vogliamo sapere anche da Arturo Artom che ne pensa. Qual è quello più agghiacciante? Buonasera Artom. Arturo Artom. Buonasera a tutti. Come va? Molto bene, molto bene. Ma cosa fa Arturo Artom? Beh, adesso vuole scendere in politica. Nella vita cosa fa? Adesso vuole scendere in politica, Parenzo. Beh, dopo un anno di forum della meritocrazia abbiamo deciso, si vede una volta sola, abbiamo aperto rinascimentoitaliano.org dove le persone in gamba possono lasciare il curriculum e noi le selezioniamo per fare la lista della vera società civile. Hai capito Parenzo? Rinascimentoitaliano.org e ti puoi iscrivere anche tu come espressione della società civile. Tu dici abbiamo chi? Ma non ci penso minimamente. Siamo stati anche fortunati perché siamo partiti il giorno in cui Grillo ha chiuso le candidature esclusivamente militanti, quindi ha perso lo spirito originale e siamo partiti noi che abbiamo copiato lo spirito di Grillo aggiungendo però un pochino più di competenza e determinazione. Capito? Ma cosa fa nella vita Arto? Perché se è una cosa io non l'ho mai capito. Beh, qualcuno scrive che Artom è un grandissimo millantatore. Beh, io devo dire che chi ha scritto quello ha ritirato anche l'articolo e quindi ho fatto delle bellissime cose. Cioè, ha ritirato l'articolo chi? Signor Pagani? Cioè, ha ritirato l'articolo, che vuol dire? Scusi. Nel senso che l'articolo di luglio è stato ritirato perché avevo scritto. È ritirato, lì resta. E poi, visto che abbiamo fatto una bella intervista 3 giorni fa parlando di politica. Quello è vero, quello questa è vero. Questa è la cosa fondamentale. Lei fu definito dal fatto il nuovo Conte Max, Zelig dai 1000 incarichi da Telesystem al Forum per il meritocrazia. Io ho fatto 26 anni l'azienda che ha liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni. Sì. Ho fatto parecchie aziende imprenditoriali. Sì. Un anno e mezzo fa con centinaia di giovani abbiamo lanciato il Forum della meritocrazia. Sì. Scusi un attimo, Artom, ma allora Zine Esistenti, parlare con Steve Jobs, con Agnelli era di casa, Al Gore mi diceva tutte cose che si è inventato Pagani? Non voglio voglio, come dire, mi è simpatico, non voglio scrivere la stessa lettera che scrisse Il Fatto come una querela per diffamazione. Il Fatto è stato molto corretto, si parla di politica, se vogliamo parlare di... Cioè una riparazione, questa intervista è stata una riparazione? Ho fatto, assolutamente no, anzi non sapevo neanche che venisse fatta. Abbiamo fatto una cosa molto bella, negli Stati Uniti io andai per 2 anni, scrissi una serie di articoli in Italia, vivendo l'Italia, un po' l'Italia doveva fare come la Apple, unire Made in Italy e tecnologia, sì. Mi fecero incontrare Steve Jobs ed era l'edizione nel quale per lanciare l'iPhone, sì, la convention della Apple fu tappezzata tutta San Francisco delle immagini di Leon Battista Alberti. Ma ce l'ha la foto? Beh, certo, c'è su internet. Leon Battista Alberti, come c'è col fondatore di YouTube, sì, ho fatto 2 anni in Silicon Valley molto belli, sì, e il dato importante per l'Italia... Cioè il logo, che... veramente il logo di questo forum della meteocrazia glielo suggerì il signor Jobs? Lo slogan del forum, che è diventato lo slogan del Rinascimento italiano, l'uomo può ciò che vuole, ed è la frase simbolo di Leon Battista Alberti, che fu il simbolo di quella convention del Rinascimento italiano. Pensate, tutta San Francisco tappezzata di un'immagine di un italiano con una scritta in italiano per lanciare un prodotto della Apple. Questo è quello che ci deve rendere orgogliosi. Come capito, Parenzo? Hai capito, sì? Ma ho capito, ma non sono scettico. Ecco, lasciami dire che sono un po' scettico. Ma solo per motivo, Parenzo, stanno arrivando migliaia di curriculum da tutta Italia, di una bella migliaia e noi 15. Ma scusi, Arto, ma migliaia addirittura. Migliaia? Rinascimentoitaliano.org, migliaia di curriculum da tutta Italia. E oggi lei si sente il nuovo Grillo, Arto? Oggi, perché lei dovrebbe diventare il nuovo Grillo? Oggi eravamo a Brescia perché c'è tanta voglia di partecipazione politica in Italia, sì, e noi rappresentiamo lo strumento per chi non è elite o militanza per realizzare la migliore lista che potrà essere presentata in Italia. Sul merito e sulla... Ma ce ne sono già tante di queste iniziative. No, nessuna. Se lei adesso vuole candidarsi, con chi si candida? Ma che vado dal signor Giannino, vado dal signor Giannino probabilmente non si presenterà. Grillo ha chiuso militanti, le altre liste sono per l'elite o per chi... Ma non è obbligatorio presentarsi, non è che lo prescrive il dottore. Ma c'è una grande voglia di far politica in Italia, un'enorme voglia di far politica. E noi lo dimostreremo il 15 dicembre, la giornata dei talenti a Roma, dei talenti a Roma. Presenteremo la giornata dei talenti. Però adesso poi contiamo, il 15 andiamo a contare, Parenzo. Ma cos'è la giornata dei talenti? O bus di pensionati. Saranno persone vere, in gamba, e quello che dico a tutti, visto che voglio ritornare in maniera molto chiara, tutto quello che giustamente avete detto in spirito polemico è stato ritirato, cioè non si trova più sul sito del Fatto. Beh, sul sito ci sono le stampate degli articoli. Non vorrei parlarne più, però dico a tutti, in Italia, sì, una bravissima persona, l'unico forse leader di una forza che non è stato neanche indagato per un abuso di vizio. Quindi una persona... Vabbè, ma questo nessuno lo mette in dubbio, mica hanno scritto che lei è un delinquente. A molti di questi li chiamiamo ambasciatori del Rinascimento, nei vostri comuni subirete magari gli stessi attacchi, ma siate... Scusi Arto, ma rispetto a lei Grillo che è come lo definisce rispetto a lei? Grillo ha avuto molta stima, sono sempre stato ai suoi spettacoli, è stato l'unico che ha avuto il coraggio di dire una serie di cose. Però tutti. Adesso si è fatto, a mio parere, prendere la mano, sì, perché ha fatto delle regole ovviamente che sembra trattare i suoi militanti come filini o fantozzi col capufficio. Capito, questo la pensa come te, Parenzo. Un attimo solo che abbiamo il traffico. Strade in diretta. Buonasera, il maltempo condiziona gli spostamenti su tutto il nord e lungo il versante tirrenico. Sulla 11 Firenze Mare segnaliamo code in direzione Firenze dopo un incidente tra Capannori e Altopascio. Sull'Autosole difficoltà in uscita a Incisa per allagamenti. Resta difficile poi spostarsi a Firenze città, dove rimangono chiuse molte strade e sottopassi per allagamenti. Sul resto della rete il traffico scorre, ma attenzione, nel Lazio sono in atto forti piogge sull'Autosole tra Frosinone e Ceprano, mentre a Roma in città per il cedimento del manto stradale è stata parzialmente chiusa via Nizza. Per il momento ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento tra un'ora. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, come una muchachita. Baila col ritmo bueno, non le importa mucho, si no prendo sueno. Non le importa mucho, si no prendo sueno. Qui bisogna trovare, caro Parenzo, un inno anche per il Rinascimento italiano di Arturo Artom, un nuovo ingresso. Ma manca solo quello. Ci basta il simbolo, nessun inno, cose concrete tipo il punto centrale del programma. Vabbè, adesso non ci deve spiegare il programma, Marta. Qui vogliamo trovare un inno. L'inno serve, come diceva Totò, servono. Scrivetemelo voi sullo slogan: l'Italia paradiso fiscale del lavoro. Questa sarà la provocazione. Vabbè, ma che è l'Italia paradiso fiscale del lavoro? Ma è una strozzata, Artom. Tasse sul lavoro da 50% al 25%, quindi la cosa più di destra che uno possa immaginare. Per i primi 3 anni, sì, questa misura con una piccola super IMU che deve durare 3 anni finché il gettito non riterrà come prima. Questo sarà il punto centrale del programma, che vuol dire ripartire dal lavoro, perché noi siamo qua Scusi, ma una volta lei disse lancio la sfida italiana YouTube nella Silicon Valley. E infatti abbiamo patentato uno degli algoritmi migliori sulla ricerca dei video che ci sono. Le ripeto, Cruciani, però su questo la simpatia arriva fino a un certo punto. Quell'articolo è stato ritirato. Non è stato rettificato, è stato ritirato. Ritirato che vuol dire? Sempre pubblicato? Evidentemente si è considerato, per evitare ancora la televisione, di ritirarlo. E non insista, perché non vorrei... Non querelli me. Tutti si è messi a dire simpatia, eccetera, ma non insista su una cosa che è stata ritirata e devo dire in Italia è successo... No, ma è una frase, ho parlato di una frase. Che c'è, Parenzo, che c'è? No, che se uno digita Artom su, non c'è mica solo quell'articolo lì, questo dico. Sono, è il problema di Google, è il problema che ovviamente è stato copiato lo stesso identico articolo 1000 volte, ma se cliccate sul link originale il fatto l'ha completamente, totalmente cancellato da voi. Senta, troviamo un inno. Quello che faremo con tutti gli ambasciatori del Rinascimento che stiamo... Ambasciatori del Rinascimento, no, però. Assolutamente. È stato il punto italiano dove abbiamo unito il pensiero scientifico con il punto del vero. Arto, ma però come si fa il Rinascimento, su? No, ma a me dispiace perché se uno... Fermare, no? O fermare il declino piuttosto che... Sì, per carità. Parliamo di cose positive. Parliamo di come far attrarre i talenti dall'operaio polacco al ricercatore inglese. Artom, se uno... La cosa drammatica della rete è che se uno digita il tuo nome, Arturo Artom, c'è un articolo che è scritto del blog di tale Daniele Martinelli che dice da brigatista mancato a rinascimentista. Sì, perché ha detto che se fosse nato 20 anni fa sarebbe... Questo è vero, io sono sempre voluto andare controcorrente. Cioè 20 anni fa saresti stato un brigatista? Parenzo e Cruciani, fate voi un'aziendina senza nessuna quando avete 25 anni e vincete l'antitrust, una sentenza storica che ha liberalizzato il mercato italiano della telecomunicazione. Questo aspetta, allora dunque, cosa aspetta, scusa Artom, allora lei cosa ha fatto? Ve le vogliamo verificare queste cose. L'agendina. Ho fatto la prima azienda? Nel 94-96, combatté contro la SIP, eravamo 3 ragazzi di 25 anni, si chiamava Telsystem, la sentenza con cui l'antitrust ci dette ragione per far concorrenza sulla telefonia vocale fu quella che fece partire per strada Omnitel e tutti gli altri. Seconda cosa? Presidente di Omnitel. La rete aziendale. La seconda cosa qual era che ha detto? Ho battuto il Digital Divide con la Nessist inventando l'ente via satellite, dire più cose positive di così. No, una seconda mi sembrava. Perché quando ti attaccano per entrare in politica, lo dico a tutti, non bisogna abbassare lo sguardo, anche andare direttamente, avere coraggio, soprattutto quando si è onesti, competenti e pubblici. Va bene, grazie Artom. Carlo da Catania, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io telefonavo per il discorso di Sallusti. Per me Sallusti è una vittima perché alla fine il magistrato ha avuto 30.000 euro, credo che questo è bastato, non più che sufficiente. Del resto i magistrati delle cazzate ne fanno tante, non ultima quella dell'ILVA. E allora? Quella dell'ILVA è una cosa più vergognosa. Dunque? Perché l'ILVA in realtà non è vero. No, ma ho capito che c'entra. Dunque, Sallusti? Sallusti non doveva essere condannato. Hanno pagato 30.000 euro al magistrato. Io voglio vedere se fosse stato incriminato un idraulico o un meccanico, se tutte queste cose sarebbero successe. Non sono successe perché è stato perché era un magistrato. Va bene, Carlo. Grazie. Sirio da Milano, buonasera. Sì, buonasera, Cucciani. Dica. Sì, volevo anch'io fare una breve riflessione su Sallusti. Ci si sta indignando sul fatto dell'arresto domiciliare in casa della sua compagna, sa perché, con piscina, eccetera, eccetera. Però io vorrei ricordare che tempo fa anche Callisto Tanzi ha avuto gli arresti domiciliari in una villa enorme con parco a disposizione, eccetera, eccetera. Quindi, solo che Tanzi veramente ha fatto del male a qualcuno. Sallusti cosa ha fatto? Ha mandato in stampa un articolo che, vabbè, ha scritto un suo giornalista, lui va bene, non ha controllato come direttore. Però mi sembrano due pesi e due misure, insomma. Cioè, se grazie, c'è da fare Riccardo... il carcere, lo si fa veramente. Sì. Se no, queste cose qua, anche Tanzi, arresti domiciliari solo perché aveva raffreddore, mi viene da ridere, insomma. Grazie. Riccardo, provincia di Lucca, per chiudere. Riccardo, veloce. Salve Cruciani, ora lei mi ha rovinato la digestione. Prima addirittura, ho mangiato uno spaghettino buono con le arzelline che era la fine del mondo, poi mi fa sentire bandiera rossa il coso e poi allora? Quella di Pionati, quella dell'UDR e mi sento devo proprio, chiudere, a domani Riccardo, mi dispiace per la sua digestione, a domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.